Madame de Villeparisis, d'altronde, non era contenta che a metà della visita del nipote. Questi, pur trovando le grandi difetti, le voleva molto bene. Ma di tanto in tanto, in preda alla collera, spinto da risentimenti immaginari e incapace di frenare i propri impulsi, le indirizzava lettere d'estrema violenza, rinfacciandole delle minuzie di cui, fino a quel momento, sembrava non si fosse accorto. Posso citare, fra gli altri, questo episodio del quale venni a conoscenza in seguito al mio soggiorno a Balbec. Madame de Villeparisis, temendo di non avere con sé abbastanza denaro per poter prolungare la villeggiatura e non volendo, perché era avara e detestava le spese superflue, farsi spedire altro denaro da Parigi, si era fatta prestare 3.000 franchi dal signor de Charlet, il quale, di lì ad un mese, scontento di lei per qualche ragione insignificante, ne pretese la restituzione per bonifico telegrafico. Ricevette 2.990 franchi rotti. Vedendo la zia pochi giorni dopo a Parigi e conversando amichevolmente con lei, le fece notare, con molta dolcezza, l'errore commesso dalla banca che aveva provveduto al bonifico. «Ma non c'è nessuno errore», rispose Madame de Villeparisis. «Il bonifico telegrafico costa 6 franchi e 75 centesimi». «Ah, ma se intenzionale va benissimo. Ve l'avevo detto solo per il caso che non lo sapeste, perché se la banca avesse agito così con persone meno intime di me, avreste potuto trovarvi a disagio». «No, no, non c'è nessun errore». «In fondo ne avevate tutto il diritto», concluse con tono gaio Charlet, baciando teneramente la mano di sua zia. In effetti, non gliene faceva certo una colpa, semplicemente sorrideva di quella piccola taccagneria. Ma qualche tempo dopo, messosi in testa che in una faccenda di famiglia la zia avesse voluto imbrogliarlo e complottare a suo danno, e poiché lei si trincerava scioccamente dietro certi uomini d'affari che erano appunto quelli con i quali Charlieu la sospettava d'essersi alleata contro di lui, le aveva scritto una lettera traboccante di furore e d'insolenza. «Non mi limiterò a vendicarmi», aggiungeva nel post-scriptum. «Vi coprirò di ridicolo. Da domani racconterò a tutti la storia del bonifico telegrafico e dei 6 franchi e 75 centesimi che m'avete trattenuti sui 3.000 che vi avevo prestati. Vi disonorerò». Invece, l'indomani, era andato a chiederle scusa, pentito di quella lettera piena di frasi veramente atroci. D'altronde, a chi avrebbe potuto rivelarla la storia del bonifico telegrafico? Non desiderando più la vendetta, ma una sincera riconciliazione, adesso ne avrebbe taciuto. Ma prima, mentre andava ancora perfettamente d'accordo con la zia, l'aveva raccontata a tutti, senza cattiveria, per far ridere e perché era l'indiscrezione fatta persona. L'aveva raccontata, ma all'insaputa di Madame de Villeparisis. Così, apprendendo dalla sua lettera che il nipote intendeva disonorarla divulgando un'azione che peraltro, quando si erano parlati, aveva dichiarato pienamente legittima, la marchesa aveva dedotto che egli l'avesse allora ingannata e che mentisse, fingendo di volerle bene. C'era poi stata una completa rappacificazione, ma nessuno dei due sapeva con esattezza che cosa l'altro pensasse di lui. Si trattò, certo, in quel caso, di un alternarsi di litigi un po' insolito. Di diverso tipo erano quelli fra Bloch e i suoi amici. D'un altro ancora, come si vedrà, quelli fra Charlieu e persone che nulla avevano in comune con Madame de Villeparisis. Ciò nonostante, non bisogna mai dimenticare che i giudizi che noi diamo gli uni degli altri, i rapporti d'amicizia, i vincoli familiari, non hanno che l'apparenza della stabilità, mentre sono eternamente mobili come il mare. Per questo circolano tante voci di divorzio a proposito di coppie che sembravano tanto unite e che subito dopo parlano l'uno dell'altra con reciproca tenerezza. Tante infamie dette dall'amico sul conto dell'amico dal quale lo credevamo inseparabile e col quale lo vedremo riconciliato prima d'aver avuto il tempo di riprenderci dal nostro stupore. Tanti e così fulminei rovesciamenti d'alleanza fra le varie nazioni. «Santo cielo! C'è del tenero fra mio zio e Madame Swan!» mi sussurrò Saint Leu. «È la mamma che nella sua innocenza li va a disturbare! Omnia munda mundis!» Guardavo il signor de Charlieu, il suo ciuffetto di capelli grigi, il suo occhio sorridente, col sopracciglio sollevato dal monocolo, l'occhiello della sua giacca fiorito di rosso, formavano come i tre vertici mobili di un triangolo stupefacente e convulso. Non m'aveva rivolto il minimo cenno e io non avevo osato salutarlo, ma sebbene non guardasse nella mia direzione, ero convinto che mi avesse notato. Mentre intratteneva con qualche storia Madame Swan, il cui magnifico mantello color pervinca spioveva fin sul ginocchio del barone, gli occhi inquieti del signor de Charlieu, simili a quelli di un merciaio ambulante che tema l'arrivo della madama, avevano certo esplorato ogni parte del salotto e scoperto tutte le persone che vi si trovavano. Il signor di Châtellerault andò a salutarlo e niente nel volto di Charlieu diede a vedere che egli avesse notato il giovane duca prima che questi gli si parasse davanti. Nelle riunioni poco affollate come questa, Charlieu serbava quasi in permanenza sulle labbra un sorriso senza direzione né destinazione specifica e che, preesistendo in tal modo ai saluti di chi sopraggiungesse, si trovava ad essere, quando qualcuno ne attraversava il raggio, privo di qualsiasi sfumatura d'amabilità nei suoi confronti. Non di meno, dovevo pur andare a salutare Madame Swan, ma poiché non sapeva se conoscessi Madame de Marsan e il signor de Charlieu, lei fu piuttosto fredda, temendo evidentemente che le chiedessi d'essere presentato. M'avvicinai allora a Charlieu e subito me ne pentii, perché, pur nell'assoluta impossibilità di non vedermi, non tradì la minima reazione. Quando m'inchinai davanti a lui, m'imbattei, distante dal suo corpo, cui mi impediva d'avvicinarmi quanto era lungo il suo braccio, in un dito vedovo, si sarebbe detto, d'un anello episcopale, di cui sembrava offrire al bacio il luogo consacrato, e dovetti dare l'impressione d'essere penetrato, all'insaputa del barone e grazie a un'effrazione di cui mi si addossava ogni responsabilità, nella permanenza, nella dispersione anonima e vacante del suo sorriso. Tale freddezza non era certo fatta per incoraggiare Madame Swan a deflettere dalla sua. «Hai l'aria così stanca, così nervosa», disse Madame de Marsant a suo figlio, che si era avvicinato per salutare Charlieu. In effetti, gli sguardi di Robert sembravano, a tratti, immergersi in una profondità da cui immediatamente si ritraevano, come un tuffatore che abbia urtato contro il fondo. Questo fondo, che faceva tanto male a Robert quando lo toccava e che lui lasciava subito per tornarci dopo un istante, era l'idea di avere rotto con l'amante. «Non importa», aggiunse sua madre accarezzandogli la guancia. «Non importa, com'è bello vederti, bambino mio!» Poiché però Robert sembrava infastidito da tanta tenerezza, Madame de Marsant lo trascinò verso il fondo del salotto, dove, in una rientranza tappezzata di seta gialla, alcune poltrone di Beauvais ammassavano il viola dei loro rivestimenti da razzo come giaggioli imporporati in un campo di botton d'oro. Madame Swan, che era rimasta sola e si era accorta della mia amicizia con Saint-Lieu, mi fece segno di andare da lei. Non vedendola da tanto tempo, non sapevo di cosa parlarle. Non perdevo di vista, fra tutti i cappelli posati sul tappeto, il mio, ma mi chiedevo con curiosità di chi potesse essere quello che, pur non appartenendo al duca di Guermantes, portava impressa sulla fodera una G sormontata dalla corona ducale. Conoscevo il nome di tutti i visitatori e non ne trovavo uno cui quel cappello potesse appartenere. «Com'è simpatico!» dissi a Madame Swann indicandole il signor di Norpois. «Robert de Saint-Lieu veramente mi dice che è una peste, ma...» «Ha perfettamente ragione!» mi interruppe. Intuendo che taceva qualcosa cui alludeva con lo sguardo, la tempestai di domande. Contenta, forse, di farsi vedere occupatissima da una conversazione in quel salotto in cui non conosceva quasi nessuno, Madame Swann mi condusse in un angolo. «Il signor de Saint-Loup», riprese, «voleva certo dire... Ma non glielo riferite, mi troverebbe indiscreta e io tengo troppo alla sua stima. Sapete che sono molto galantuomo. Dunque, Charlie recentemente è stato a pranzo dalla principessa di Guermantes. Non so come, si è parlato di voi. Pare è una stupidaggine, non state a preoccuparvene. Nessuno ci ha fatto caso. Sapevano bene da che pulpito veniva la predica. Pare che Norpois abbia detto che siete un adulatore mezzo isterico». Ho già descritto parecchio tempo fa la mia stupefazione nello scoprire che un amico di mio padre come il signor di Norpois avesse potuto esprimersi così sul mio conto. Ancor più mi stupii venendo a sapere che la mia emozione di quel giorno lontano in cui avevo parlato di Madame Swann e di Gilbert era nota alla principessa di Guermantes, dalla quale mi credevo ignorato. Fra ciascuno dei nostri atti, parole, atteggiamenti e la società, le persone che non l'hanno direttamente percepito, si frappone, separandoli, un mezzo la cui permeabilità varia all'infinito e ci rimane sconosciuta. Dopo aver sperimentato che un certo discorso importante, di cui avremmo tanto desiderato la diffusione, per esempio quelli traboccanti d'entusiasmo che io facevo una volta con tutti e in tutte le occasioni a proposito di Madame Swann, nella convinzione che spargendo molti buoni semi uno avrebbe pur finito con l'attecchire, è immediatamente finito, a causa spesso del nostro stesso desiderio nel dimenticatoio, ancor più e a maggior ragione eravamo lontani dal credere che una parola minuscola, da noi stessi dimenticata o addirittura mai pronunciata, formata a metà strada dall'imperfetta rifrazione d'una diversa parola, sarebbe stata trasportata in un viaggio ininterrotto a distanze infinite, nella fattispecie sino in casa della principessa di Guermantes, andando a divertire a nostre spese il convito degli dèi. Ciò che ricordiamo del nostro comportamento rimane ignoto al nostro vicino più prossimo. Ciò che abbiamo dimenticato d'aver detto, o addirittura ciò che non abbiamo mai detto, giunge a scatenare l'ilarità fin su un altro pianeta, e l'immagine che gli altri si fanno dei nostri fatti e gesti non assomiglia a quella che ce ne facciamo noi stessi, più di quanto non assomiglia a un disegno, una cattiva riproduzione, dove a una linea nera corrisponde uno spazio vuoto e a una bianca un contorno indecifrabile. Ma può anche darsi che a non venire trascritto sia qualche tratto irreale che scorgiamo solo per compiacenza e ciò che ci sembra giunto, al contrario, ci appartenga, ma in modo così essenziale da sfuggire a noi stessi. Quella strana bozza che giudichiamo così poco somigliante possiede quindi a volte il medesimo genere di verità, non molto lusinghiero, certo, ma utile e profondo, di una fotografia a raggi X. Questo, tuttavia, non basta a far sì che ci riconosciamo in essa. Quando uno ha l'abitudine di sorridere nello specchio alla sua bella faccia e al suo bel busto, se gli si mostra la sua radiografia, verrà assalito davanti a quella coroncina d'ossa indicatagli come una sua immagine, dallo stesso sospetto di trovarsi di fronte a un errore che coglie il visitatore di una mostra, il quale, davanti a un ritratto di giovane donna, legga nel catalogo Dromedario coricato. Di questo scarto fra la nostra e l'altrui immagine di noi stessi, avrei preso coscienza, in seguito, oltre che per me stesso, anche vedendo certuni vivere beatamente in mezzo a una collezione di proprie fotografie che si erano fatti da sé medesimi, mentre tutto intorno spuntavano con orribili smorfie immagini di cui abitualmente non si accorgevano affatto, ma che li sprofondavano nello stupore se un caso gliele metteva sotto gli occhi insinuandogli: siete voi.